Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, purtroppo torneremo a occuparci della Sardegna, nel caso specifico di Olbia, non solo per la cronaca che già vi hanno fatto i nostri GR24 sul ciclone, sull'allagamento in Sardegna, l'esondazione del fiume, ma anche a questo punto la sospensione della circolazione di tutti i treni in Gallura. Lo hanno comunicato le Ferrovie dello Stato, bloccata in via precauzionale la linea Olbia Ozieri, e poi stanno demolendo il ponte sul rio esondato, e tra l'altro il rio Siligheddu. 3 anni, 80 milioni di euro per mettere in sicurezza la zona circostante a Olbia. Perché lo dico? Perché adesso scopriamo che il primo lotto di lavori sul rio Seligheddu, esondato oggi, ma che adesso vi arrivo, esondò soprattutto nel novembre del 2013, e dicevo, un nuovo lotto di lavori non partirà prima della fine del mese. 2 vasche di laminazione, il CIPE ha stanziato 16.300.000 euro, entro una decina di giorni questi soldi dovrebbero arrivare. Il punto però è un altro, che dopo l'alluvione del 2013, novembre del 2013, che fu un'alluvione pesantissima, anche perché ricorderete che morirono purtroppo 16 persone, si era detto che servivano 50 milioni di euro per fare queste benedette vasche, come si chiamano in gergo, no? Quindi le vasche di laminazione per contenere le esondazioni e evitare le esondazioni. Nulla è stato fatto, adesso lo ascolteremo dalla voce del sindaco di Olbia, quindi questo, diciamo, lo rende un tema economico, ma quasi potrebbe entrare nella nostra poco invidiabile classifica. Poi parleremo anche degli enti locali, degli investimenti, perché da quello che abbiamo capito oggi dalle dichiarazioni del sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta, in realtà Baretta posticiperà l'attuazione al 2017 del pareggio di bilancio per gli enti locali, quindi un anno in più. Il Sole 24 Ore del lunedì, questo lunedì, aveva fatto notare, lanciando un allarme, che in assenza di un rinvio si rischiava il blocco totale di tutti gli investimenti degli enti locali se fosse stato confermato il pareggio di bilancio entro il 2016, entro il 1 gennaio 2016. Poi vedo che qualcuno vuole già che io vi racconti i dati dell'Istat, informazione venduta la chiama, bene, contento lei, però venduta bene visto che lei ci ascolta. No, al di là della battuta, il problema è un altro: i dati dell'Istat oggi ci sono, non ho e confermo di non avere nessun dubbio sull'Istat, perché da sempre, ripeto, al di là di quell'errore sulla metodologia, sull'approccio, da questo punto di vista era ai tempi dell'arrivo lira-euro. L'Istat oggi che cosa fotografa? Un potere di acquisto delle famiglie, questo farà arrabbiare gli ascoltatori, alcuni di essi, in aumento dell'1,1% in un anno. Nel secondo trimestre è positivo anche l'andamento del reddito, che cresce dell'1,3%. La crescita del potere d'acquisto, attenzione, bisogna capirsi sulle parole, non è che il potere d'acquisto sia tornato al 2007, magari, no, è questa crescita, questo 1,1% in più all'anno, che è la percentuale di aumento più forte dal 2007, ma siamo ben distanti dai livelli del 2007. Ancora cresce la spesa delle famiglie dello 0,8% nel secondo trimestre, è in calo la propensione al risparmio, e poi sul deficit nel semestre è al 3,2%, è il risultato inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso andamento del 2014. Questo dice l'Istat. Poi ci sono altre indiscrezioni sulla legge di stabilità, L'esecutivo starebbe studiando un abbattimento dell'IRES per le piccole e medie imprese del mezzogiorno dal 27,5% al 20%. Una delle ipotesi allo studio, il costo si aggirerebbe intorno al 500 milioni di euro. E poi un insieme di punti da presentare all'Unione Europea per avere lo 0,3% di flessibilità, che non è poca cosa. Lo 0,3% sono circa 4 miliardi, si può arrivare fino a 5, insomma, bisogna vedere quanto è il PIL poi in realtà, però fino a 5 miliardi di euro. E questi soldi l'Italia, secondo le prime indiscrezioni di quello che presenterà l'Italia a Bruxelles, vorrebbe utilizzare questo margine, questa maggiore flessibilità, per investimenti sia sulla banda ultralarga che su interventi antidissesto e poi sull'edilizia scolastica, le strade le piattaforme di information technology e anche le ferrovie. Questi sono alcuni dei punti presenti. Ultima notizia in breve, poi passiamo ai mercati e andiamo al primo tema, quindi Sardegna e enti locali. Le domande per la voluntary disclosure, ne abbiamo parlato a lungo, soprattutto in occasione del maggior tempo concesso dal governo, sono finora arrivate, sono circa 60.000 contro le 45.000 di pochi giorni fa, ma si rimane sulla stima di un gettito di 1.400 milioni. Questo l'ha detto oggi la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Il gettito di 1.400 milioni sarebbe un po' deludente per quello che riguarda le attese del governo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, il mercato perde lo 0,77%, molto altalenanti oggi le borse. Devo dire che non ha dato una mano all'America, perché ha aperto il Dow Jones e sta perdendo lo 0,70%, erano anche leggermente positive prima sia Milano che Parigi. Adesso Milano perde lo 0,70%, Parigi pure, Francoforte meno 1,70%, e poi per quello che riguarda l'America, dicevo 0,70, Londra invariata. L'euro su dollaro è a quota 1,11, quasi 1,12. Tra i titoli segnaliamo Mediaset più 3,80, A2A più 2,40, Unipol più 2%, Mediolanum più 1,80, Fiat Chrysler l'1,5% di rialzo, come la Pop Milano l'1,40, Tenaris l'1%, Unipol SAI. Il fronte opposto, Telecom Italia meno 4,81, Enel meno 2,40 come Banco Popolare, e Green Power meno 2% come Snam, Azimut meno 1,80, ST Microelectronics meno 1,50 come il Monte dei Paschi e Tods, ma anche Saipem spicca il calo di Telecom. Ci sono anche notizie di carattere tecnico, però c'è un calo generalizzato in tutto il settore delle telecomunicazioni in Europa. E poi è arrivata, tra altre cose, per quello che riguarda il gruppo Telecom Italia, la smentita di Orange di avere contatti con il gruppo italiano. Per quello che riguarda invece i migliori e peggiori in assoluto, di solito li diamo dopo, ma li volete già adesso: Olidata più 7,80, Lucisano più 7,16, Club invece sul fronte opposto meno 8%, Meteorios Capital meno 9,21%. Allora, non c'è nessun tipo di informazione ottimistica adesso, figuratevi se qui professiamo ottimismo. Per quello che riguarda invece, alcuni mi chiedono anche della vicenda OGM. Sì, certo, ne parleremo. Perché? Perché oggi il ministro Maurizio Martina, sia il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione di tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo. Che cosa è successo? L'Europa lascia liberi gli stati di decidere cosa vogliono fare in tema di OGM, cioè se vogliono avere delle aree in cui sperimentare la ricerca sugli OGM, magari per arrivare a un utilizzo più basso di pesticidi e di diserbanti e di altre cose, oppure se non vogliono. È a discrezione del paese. L'Italia ha detto no, noi abbiamo verificato e vogliamo vietare, ci dà la possibilità la direttiva europea del 2015, dell'11 marzo, vietare la coltivazione degli organismi geneticamente modificati. Ora, chi vi parla su questo ha una posizione molto netta, è una grandissima cavolata, nel senso che già vietare la ricerca in generale è sbagliato come approccio. In questo caso non si tratta di andare a fare concorrenza alla Monsanto, si tratta di capire come ci spiegò, li arriveremo ospiti, chi se ne occupa del CNR, se dalla ricerca sugli OGM possono arrivare dei benefici per noi consumatori, magari utilizzando appunto meno chimica in quello che riguarda la coltivazione, pensiamo alle mele del Trentino, alle pere, a tutto i prodotti ortofrutticoli italiani. Perché lo dico? Perché è una grandissima cavolata, perché in questo modo si lascia ad altri paesi, Stati Uniti ma non solo, il dominio incontrastato della ricerca, non parlo delle vendite, ma e poi ricerca vuol dire brevetti e vendita, ricerca che verrà fatta solo su quello che interessa agli Stati Uniti, quindi soia, mais, a loro non ne può fregare di meno delle mele nostre, delle pere nostre, tonnellate di chimica che vengono messe nella nostra frutta per proteggerla da parassiti. Allora la ricerca sugli OGM vuole anche dire sviluppare nuove forme di frutta e verdura più resistenti, ma soprattutto è una grandissima ipocrisia, perché questo è bene che tutti lo sappiano, perché il 90% dei mangimi che noi utilizziamo per le mucche, per produrre il grana padano, il parmigiano reggiano, per i maiali, per fare il San Daniele, il Parma e il Toscano, utilizzano mangimi che vengono dall'estero e sono al 90% geneticamente modificati, sia che vengano dall'Argentina che vengono dalla Spagna. Quindi il risultato è che noi proibiamo qualunque tipo di ricerca e sperimentazione sugli OGM, ma non abbiamo nessun problema ad avere le nostre bestie che producono i prodotti di qualità del Made in Italy che si alimentano con gli OGM. Se tutto questo sembra coerente, auguri. E ne parleremo nella seconda ora. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Viva il biologico, siamo tutti per il biologico, ma tutti sappiamo, lo dico a chi mi sta già scrivendo, che il biologico non ti garantisce quel tipo di produzioni. Allora decidiamo che smettiamo di avere certe produzioni anche di eccellenza in alcune aree. E poi mi dovete rispondere che coerenza ha un paese, abbiamo cercato il ministro Martina, non l'abbiamo trovato, che proibisce la sperimentazione ma non ha problemi a utilizzare il mangime per i suoi animali, completamente, vi ripeto, siamo al 90% del mangime modificato OGM. Per cui. Allora, andiamo subito al primo tema, dicevo che l'alluvione in Sardegna, ma non è solo un tema, diciamo, di cronaca, ahimè, per fortuna da quello che vediamo morti non ce ne sono, per cui facciamo gli scongiuri. Il problema è capire che cosa è successo dal novembre del 2013, 18 novembre del 2013 all'ottobre del 2015. Io non so, non sono un tecnico, non so quanto ci voglia fare una vasca di laminazione per il rio San Nicola, due vasche per il rio San Nicola e altrettante sul rio Seligheddu. Non essendo il rio delle Amazzoni o il fiume Congo, immagino che 2 anni possono essere più che sufficienti. Certo, servono le risorse e qui entriamo proprio in un classico tema di questo programma. E speriamo che gli effetti siano più contenuti. È esondato lo stesso torrente, lo stesso fiume che esondò 2 anni fa. Ovviamente qua ci chiediamo come sia possibile. che Olbia ha un reticolo al momento di canali totalmente inadeguato, perché vecchi canali di bonifica oppure fiumicattoli che poi col tempo e con l'abusivismo edilizio e con l'urbanistica non controllata sono stati interessati da tombamenti o quant'altro. Noi in questi due anni abbiamo speso oltre 20 milioni di euro, tenga conto che i lavori complessivamente per mettere in sicurezza il territorio quota circa 125-130 milioni di euro. Noi abbiamo portato avanti in questi due anni opere di messa in sicurezza, abbiamo fatto dei lavori importanti, anche delle demolizioni di opere incongrue, e abbiamo predisposto un progetto che è stato in parte anche finanziato, e di conseguenza abbiamo fatto dei passi da gigante rispetto a due anni fa. Le opere sono in corso, purtroppo opere come quella di realizzazione delle casse di laminazione che necessitano di valutazione di incidenza ambientale o di valutazione di ambientale strategica e tutto il resto e tutte le procedure per convalidare, per validare i progetti necessitano di tempi ben più lunghi di due anni. Allora, questo è il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli. Poco fa, ripeto, la rete ferroviaria italiana ha bloccato tutti i collegamenti ferroviari, chiusi gli uffici pubblici e stanno procedendo alla demolizione del ponte sul rio esondato. Sì, allora voi capite che, per carità, il sindaco dice abbiamo fatto delle cose, meno male che le hanno fatte, non oso pensare cosa sarebbe successo, ma... E poi cita la valutazione di impatto ambientale. Tutto bene, mi chiedo, ma nel momento in cui tu hai avuto un'esondazione perché mancavano le vasche di laminazione con 16 morti, ma che cosa ti deve dire la valutazione di impatto ambientale se non metti in sicurezza questi due rii e quindi il rio Seligheddu in un caso e il rio San Nicola nell'altro? Ma soprattutto chiedo e giro la domanda a chi in quei tragici giorni di novembre del 2013, del 18 novembre, fu inviato da Sole 24 Ore in posto e fece anche lunghe inchieste su quanto era successo in Sardegna. Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore, buonasera Mariano. A voi, ciao. Allora Mariano, adesso io nessuno stiamo raccogliendo informazioni, per carità, non c'è stato nessun morto e vabbè, non è che si può andare avanti in questo modo. Tu hai sentito la dichiarazione del sindaco di Olbia. Allora lì che cosa è successo? Cioè tu quando raccontasti in quei giorni, no? Già domenica Olbia era alluvionata, insomma tutto questo si sapeva, è una vita che lo diciamo. Beh, che effetto ti fa vedere che dopo due anni il sindaco dice qualcosa abbiamo fatto, ma stiamo ancora con le valutazioni di impatto ambientale? Nessuno. È la stessa situazione di Gesta di un anno fa, ti ricordi? Si dovevano costruire. La stessa situazione che ho perso? La stessa situazione? No, di Gesta di un anno fa, cioè delle alluvioni precedenti, lavori che erano stati stabiliti per imbrigliare questi rii che cadono rovinosamente verso il mare, non furono fatti perché la ditta che poi si ritrovò ad essere contestata dalla seconda perdente e ci fu tutta una disputa davanti al TAR, al Consiglio di Stato. Passarono gli anni, le alluvioni si ripetono e questi eventi drammatici mettono in enorme difficoltà la collettività. Ma la cosa che sconvolge di più è che la Olbia è costruita su rii tombati, cioè sostanzialmente hanno fatto finta che non esistessero i corsi d'acqua, perché magari negli ultimi 20 anni non avevano dato particolari problemi, e sono nati dal nulla 23 quartieri e tutto funzionava a colpi di varianti. Cioè Olbia, come molti paesi del sud Italia e delle isole, non ha un piano regolatore. Non lo fece Settimo Nizzi, il sindaco che governò la città per 10 anni, che come sai era il medico mamma di Berlusconi, cioè diventa sindaco perché la mamma di Berlusconi sta male, lui va a trovarla, a visitarla, a Berlusconi piace l'uomo, gli dice tu sarai il sindaco di Olbia. E così è rimasto sindaco 10 anni. No, questo perché, non per fare colore, ma per capire anche le traiettorie umane e politiche di questo singolare paese. E quindi a te non fa nessun effetto? Questo, vai. Vivono di edilizia, hanno vissuto di edilizia. L'attuale sindaco è proprietario, non c'è nulla di male per carità, ma è proprietario di un'azienda edile che poi ha mollato nel momento in cui è diventato sindaco. E l'attuale sindaco era un fedelissimo di Nizzi, anche lui Forza Italia, ma a un certo punto c'è un litigio feroce tra i due e Giovannelli diventa il capo della coalizione opposta. Quindi io non voglio adesso spargere veleni, però mi pare che si sia perso anche lì molto tempo nei confronti, nei conflitti tra le persone, e poco invece ci si è concentrati su un problema che è enorme ed è destinato, come a Genova, a ripetersi ad ogni alluvione. Sì, io ti ripeto, non sono un tecnico, però 2 anni per fare 2 vasche da una parte e 2 vasche dall'altra su 2 rii, ripeto, che non sono quelli delle Amazzoni, mi sembrano un po' tanti. Hai fatto bene invece a ricordare la vicenda anche politiche, perché poi, sai, se tu passi il tempo a litigare, a discutere così, e la selezione avviene in un certo modo, nessuno dubita che si possa fare anche altro, però forse potevi concentrarti un po' di più. No, lo dico perché fra poco parleremo con Gianni Trovati di quanto ha annunciato oggi il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta, cioè darà più tempo ai comuni per il pareggio di bilancio, se no si bloccano gli investimenti. Ma visto che tu questa vicenda l'hai studiata bene, Mariano, qui c'è più una responsabilità di trasferimenti dello Stato, quindi il CIPE oggi ha stanziato 16 milioni e mezzo verso Olbia, o incapacità degli amministratori che avevano per altri motivi blocchi, veti incrociati, quel cavolo che è un po', ci sono tempi della burocrazia che conosciamo benissimo. Nel caso particolare Olbia è anche un comune virtuoso, cioè ha un avanzo di 50 milioni e Nizzi 3 anni fa scrisse a Letta, o 2 anni fa quando le presidente del Consiglio, dicendogli vogliamo spendere questi quattrini per risolvere il problema del dissesto idrogeologico. Ecco, da Palazzo Chigi non arrivò mai via libera, perché nessun governo può dare il via libera e può dire a un comune no, utilizza i soldi e così viola il patto di stabilità, perché sappiamo, e tu lo racconti ogni giorno nelle tue belle trasmissioni, che ci sono dei vincoli insuperabili. Assurdi, quindi come dire l'handicap strutturale di aver costruito una città dove non andava costruita, perché Olbia è costruita in un posto sbagliato, ma tutti i sindaci davano le licenze appunto in presenza di un piano regolatorio inesistente, e perché così poi ovviamente organizzavano il consenso e venivano eletti a furore di popolo, perché anche i singoli cittadini, bisogna dirla questa cosa, hanno delle responsabilità. No, lo dice a me che ricevo sempre messaggi di insulti da persone che sembra che siano sbarcate da Marte ieri, non abbiano mai votato in Italia, mai votato per nessun partito, mai partecipato a questo paese, tutte vergini o demi vierge, come dicono i francesi. Però in realtà qualcuno si è assumesse anche la responsabilità di quello che è stata l'Italia negli ultimi 20 anni, 30 anni. Non è che, cioè, è questo programma che ha governato il paese, per fortuna, aggiungo io, però lo dico perché vedo queste verginità che non sono mai un problema di centimetri, come dicono in gergo, e quindi c'è una responsabilità dello Stato di non aver avuto il coraggio anche di andare oltre il patto di stabilità, e poi una responsabilità degli amministratori nel passato di aver costruito una città dove non andava costruita. Purtroppo questa non è l'unico caso in Italia, e al sud ne sappiamo qualcosa, ma nell'altro caso c'è, dopo il 2013 ci sono 16 morti, una città bloccata, stato di emergenza. Ti sembra normale che il sindaco dica sì, abbiamo fatto qualcosa, ma ancora stiamo lavorando? Chiedo. Ma a Genova è successa la stessa cosa, ed è importante perché questi eventi ormai si ripeteranno e si continuano a ripetersi, a succedersi un anno dopo l'altro. Quindi è importante anche prevenire e organizzarsi per il profilo della protezione civile, cioè chi fa informazione deve dire, e lo dicevano gli esperti l'anno scorso a Genova durante l'alluvione, che quando ci sono queste piogge copiose bisogna salire a piani alti, non bisogna usare l'automobile. Quello che, ecco, questo è l'aspetto positivo, perché forse la tragedia a qualcosa è servita, per non parlare sempre in negativo. Quest'anno le scuole sono state chiuse. Ti ricordo che nel 2013, momento di massima intensità delle precipitazioni, le mamme alle 17, alle 5 del pomeriggio, perché è il giorno in cui i bambini rientravano a scuola, erano in automobili a andavano a prendere i figli e le figlie, quindi poteva accadere, sono stati 19 morti, potevano essere il doppio, più del doppio. Ecco, questa volta il piano di allerta è scattato, la popolazione è ovviamente ipersensibilizzata e quindi almeno non ci sono state vittime. Non è poco in un paese come l'Italia. No, non è poco in un paese come il nostro, è poco quello che sentiamo che è stato fatto, mi dispiace dirlo. Hai fatto molto bene a ricordare anche queste cose e ricordare anche Genova, così adesso io spero che sia un autunno. Ma come si fa a vivere in un paese in cui uno deve augurarsi che sia un autunno e un inverno poco piovoso? Così gli agricoltori mi sparano, no? Già si stanno arrabbiando moltissimi difensori del biologico. Io adoro il biologico. Abbiamo fatto un altro ragionamento sullo GM, adesso ci arriviamo. Lo dico a molti che mi stanno scrivendo di tutto, mamma mia. Va bene, però dico attenzione, che va bene che non ci sono i morti, però mettiamoci in guardia, o ci auguriamo che inverno e autunno e primavera non piova in questo paese, oppure da questo punto di vista iniziamo a prepararci anche su Genova, perché se poi arriverà un mese di piogge intense, tu ci hai già detto quale sarà, io spero di sbagliarmi, il prossimo collegamento che farai in questo programma. Grazie intanto a Mariano Maugeri. Focus Economia. Allora, purtroppo devo dare un aggiornamento alla Sardegna, perché tutti i canali di Olbia sono a livello di guardia. Poco dopo le 16.30, sto leggendo insieme a voi le agenzie, il rio Siligheddu, che era appunto già tracimato in mattinata, ha straripato anche nel quartiere Bandinu, che è il più colpito dall'alluvione di 2 anni fa, quello dove si registrano, ahimè, il maggior numero di morti. Stessa sorte per il rio San Nicola, che ha mandato sott'acqua via Galvani il rio e anche per il rio Gadduresu, che è invaso via Barcellona. Non si contano più, recita l'agenzia, le case allagate e le persone soccorse. Dichiarato lo stato di emergenza dal sindaco di Olbia, stiamo facendo arrivare in zona uomini e mezzi, ha detto il governatore Salto Francesco Pigliaru, e tra l'altro una macchina imponente, aggiunto l'assessore all'ambiente Donatella Spano, composta da 10.000 tra donne e uomini della protezione civile, 70 unità, 2.000 addetti all'ente foreste, 600 mezzi, 720 unità del corpo forestale, 7 colonne mobili pronte a intervenire, 2 colonne già attive su Olbia. Sembra un bollettino di un'invasione bellica, ma già ne trovati. Ricollegandoci a quanto ricordava adesso Mariano Maugeri, che fu inviato da Sole 24 Ore e fece le inchieste dopo l'alluvione del 2013, è vero che il governo diede a suo tempo una deroga solo per il comune di Olbia, dicendo, come oggi dice, che ci sono 16 milioni e mezzo del CIPE, tu puoi non stare dentro il patto di stabilità. Però poi il problema è che tu deroghi sui soldi, ma l'iter burocratico è uguale per gli altri, quindi non hai una procedura, è una corsia d'emergenza. Esattamente, il problema è proprio quello: tu hai una situazione strutturale che ti impedisce per varie ragioni investimenti, poi arriva il problema, arriva dopo il problema, arriva la deroga parziale sul patto di stabilità. Ieri, per esempio, l'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che fa una piccola deroga, 13 milioni virgola qualcosa, per i comuni di Parma e Piacenza, cioè delle zone di Parma e Piacenza, che sono stati colpiti dall'alluvione 2 settimane fa. Sostanzialmente, se tu arrivi in ritardo, quindi hai investimenti bloccati dalle regole ordinarie, poi succede il patatrac, dai una piccola deroga, con tutti poi gli iter burocratico-amministrativi che il nostro paese ben conosce, naturalmente l'opera arriva troppo tardi e nel frattempo il problema strutturale che tu avevi prima continui ad avercelo. Naturalmente servirebbe, come dire, una possibilità ordinaria di effettuare investimenti sul dissesto idrogeologico, possibilità ordinaria che oggi non c'è e al momento non c'è neanche domani. Sì, anche questo poi porta al ritardo continuo, all'inseguimento continuo, al di là poi delle responsabilità, perché Mariano ha fatto bene a ricordare che c'è la burocrazia dello Stato che non aiuta e frena, ma c'è anche, e rendiamoci conto, una situazione che si è protratta per decenni, non solo ad Olbia, di commistione tra la politica locale e i cittadini locali. Qui lo Stato non c'entra, non diamo sempre la colpa a Roma. Avete votato, hanno votato certi sindaci perché non c'era il piano regolatore, perché l'abusivismo imperava e quindi tutto questo che generava consenso. Poi scopri che grazie all'assenza del piano regolatore e all'abusivismo ti hanno costruito la casa o la villetta che ti sei costruito o l'appartamento è sopra un fiume e che non ne vuole sapere di smettere di fare il fiume e diventare qualcos'altro, e a quel punto sono dolori ed è colpa sempre di Roma. Vabbè, qui dovremmo andare a un capitolo diverso del rapporto tra politica e territorio al sud, ma anche in alcune zone del nord. Adesso a Genova c'è di nuovo l'allarme, pure lì potremmo fare puntate, ma dovremmo andare indietro agli anni 60, agli anni 50. Con te invece vorrei restare sull'estrema attualità, Gianni, perché oggi il sottosegretario Baretta, proprio in tema di enti locali, ha detto che verrà posticipata l'attuazione del pareggio di bilancio al 2017. Voi sul lunedì del Sole 24 Ore avevate già lanciato l'allarme, che cosa si rischiava? Sì, esattamente, non stiamo cambiando argomento perché regole sul patto, sul pareggio di bilancio che dovevano entrare in vigore l'anno prossimo avrebbero di fatto bloccato, anzi bloccherebbero perché al momento sono in vigore, la possibilità di investimenti da parte delle regioni e degli enti locali, ancor peggio di quanto ha fatto fino a oggi il famoso patto di stabilità. Mm-hmm. Quindi avrebbero di fatto azzerato la capacità di investimento delle regioni e reso talmente complicato da determinare un cortocircuito la possibilità di investimento dei comuni. Siamo un paese curioso perché il pareggio di bilancio per quanto riguarda lo Stato viene rinviato di anno in anno, è già appena stato rinviato al 2018 senza tanti problemi. Mm-hmm. E lo Stato ha oltre il 90% del debito pubblico italiano. Il pareggio di bilancio serve a non far aumentare il debito pubblico, anzi a farlo ridurre in progressione. Siamo molto laschi, diciamo così, sul versante dello Stato che ha oltre il 90% del debito pubblico, siamo invece rigorosissimi sul fronte dei regioni enti locali che hanno il restante un pochino meno del 10%, in particolar modo 2, qualcosa i comuni e 5, qualcosa le regioni. Qual è il problema? Noi abbiamo approvato questa norma iper rigorosa nel 2012, governo Monti, certo. Spreda alle stelle, esigenza di tornare a farsi rispettare in Europa, abbiamo fatto una norma rigorosissima, tanto abbiamo scritto che sarebbe entrata in vigore nel 2016, ma questo paese non ha la capacità di guardare oltre a quello che accade nel pomeriggio della stessa giornata o al massimo domani mattina, quindi ce ne siamo disinteressati completamente e ora si arriva, diciamo così, alla antivigilia, anzi alla vigilia della manovra, ponendosi il problema. Il problema è ulteriormente appesantito dal fatto che questa qui è una legge che attua l'articolo 81 della Costituzione, sempre quello sul pareggio di bilancio, sempre approvato nel 2012, avrebbe bisogno della maggioranza assoluta, è una legge rafforzata che ha bisogno della maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato per essere modificata. E quindi è un problema non da poco. Diciamo l'alternativa è trovare un modo attuativo, perché poi sai che le leggi, alle certo. leggi seguono i decreti attuativi, per attuarne un pezzettino solo e fingere di dimenticarsi di tutti gli altri pezzi che sono estremamente problematici. Allora Baretta questo ha annunciato, tra l'altro il tema del pareggio di bilancio è un tema che va indietro all'aprile del 2012, per cui e da lì la riforma dell'articolo 81 della Costituzione doveva entrare a regime il 1 gennaio 2016, a questo punto al 2017 1 gennaio e vabbè. Sì, è il caso che se lo rinviano poi utilizzino il tempo in più che si sono dati per modificare alcune regole che sono, adesso non entriamo nel tecnico, ma sono paradossali, fidatevi. Ci fidiamo Gianni, di te ci fidiamo e non solo di te, grazie intanto anche a Gianni Trovati, traffico. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Vi presento Focus Economia. A 7:49 minuti. Allora, due notizie, anzi una in breve appena battute dalle agenzie. Unilever si è comprata Grom, il colosso olandese, anglo-olandese per essere precisi, del mondo anche della produzione alimentare, ha comprato l'azienda dei due torinesi Federico Grom e Guido Martinetti, che hanno 67 negozi in tutto il mondo. Non sappiamo la montata della cifra ancora. Grom, qualcuno se lo ricorderà, aperta nel 2003, il business comunque resterà autonomo e continuerà ad essere gestito da Federico e Guido, quindi è gestito dai due, recita la nota, da Torino. Sì, vediamo per quanto, perché quando te compri la Grom, poi sì, tenerlo va bene, vedremo. Comunque la Grom va al gruppo Unilever. E invece la Volkswagen va a ritirare 648.000 veicoli solo in Italia, saranno richiamati per manutenzione. I richiami riguardano i veicoli equipaggiati con motori diesel EU5 tipo EA189 e sono per la Volkswagen 361.000, poi ci sono 200.000 Audi, 35.000 Seat, 40.000 Skoda e poi 15.000 furgoni della Volkswagen veicoli commerciali. Nel frattempo c'è anche chi sta ipotizzando che la Volkswagen possa avere un danno ulteriore, sono a rischio 1 miliardo 800 milioni di finanziamenti che la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, concede, avrebbe concesso per motivi come supporto alle tecnologie ambientali e che dopo lo scandalo potrebbero saltare, perché anche la BEI sta valutando se vi sia un comportamento improprio dai possibili effetti penali. Presidente Fausto Bongiorni, presidente di, e anche avvocato Fausto Bongiorni, presidente di Asso Investors, quindi principale organizzazione a livello mondiale, voi siete parte di WFI, World Federation of Investors, la principale organizzazione a livello mondiale che tutela i piccoli risparmiatori. Buonasera. Buonasera, buonasera. Avvocato, la domanda è molto semplice, abbiamo 4 minuti. Che cosa può fare un risparmiatore nel doppio senso di uno che ha comprato il titolo Volkswagen o il fondo pensione che ha comprato il titolo sapendo che era un titolo sicuro e adesso lo vede crollare per un trucco del manager, ma anche il cliente automobilista che ha comprato una macchina convinto che fosse Euro 5 o che mantenesse una certa potenza e adesso per mantenere Euro 5, da quello che abbiamo capito, bisogna ridurre la potenza. C'è, al di là delle class action molto invocate, ma quali sono le linee? Prego. Dunque, bisogna distinguere sicuramente fra colui che è portatore di un capitale di rischio, quindi che ha investito i titoli del gruppo Volkswagen, in rapporto invece ad un consumatore in senso stretto, cioè colui che ha acquistato un veicolo non regolare. Le due posizioni sono completamente diverse, perché l'azione contro la società emittente da parte di colui che è sottoscrittore di titoli del gruppo evidentemente non fa altro che impoverire ulteriormente il gruppo, quindi lede poi alla fine lo stesso investimento. E quel che sarebbe da fare invece, avendo la possibilità di trovare le risorse da aggredire, è un'azione contro coloro che hanno messo la società in questa situazione, cioè gli amministratori che hanno commesso. Cioè i 60 milioni di euro di Wintercon, lei punterebbe su quelli? Capito sì, bene? Sì, anche se poi ottenere risarcimento nel concreto è sempre molto difficile, perché è ovvio che è più facile aggredire un gruppo molto patrimonializzato, che non, ma con il risultato che l'investitore poi riduce ancora di più il valore del proprio investimento, perché è evidente che si impoverisce ulteriormente se l'azione ha successo. Diverso è il caso del consumatore, cioè colui che ha comprato un autoveicolo Volkswagen non regolare, lui potrebbe chiedere un risarcimento, non essendo portatore di capitale, quindi non importandogli un granché del patrimonio in capo all'emittente di azioni Volkswagen, è ovvio che costui avrebbe diritto, e qui il problema però è vedere qual è il risarcimento, qual è il danno sofferto, perché se la casa sostituisce o adegua il mezzo alle normative vigenti, evidentemente almeno ora compone, diciamo, il danno. Poi forse si possono cercare altre ragioni di danno, ma che secondo me è molto difficile poter, almeno nel nostro paese, documentare e quindi poter ottenere un risarcimento. Ma mi scusi, in un minuto, il danno commerciale che molti ascoltatori avanzano, cioè io ho comprato una macchina convinta che fosse una cosa, non è così, ma anche banalmente sulla potenza, cioè perché se vanno a rimettere in regola con l'Euro 5 dovranno diminuire la potenza. È un danno commerciale che poi uno può contestare o no? È solo... A mio avviso sì, si può contestare, ad esempio se io avessi saputo che la macchina non era a posto non l'avrei comprata. Adesso però bisogna vedere, siccome la macchina ce l'hai e la macchina comunque ha un valore, bisogna capire qual è esattamente il danno, perché non è che non ha avuto nulla quello che ha comprato l'auto. Ha avuto un'auto diversa in rapporto a quel che volevo, quel che si prefigurava, e questo è sicuramente un fatto di inadempimento della casa che ha prodotto il veicolo e che può portare ovviamente a un risarcimento. Trattasi poi di quantificare il danno vero, perché il danno va dimostrato in tutto il mondo e quindi è quello che va risarcito, no? Certo, avevo un veicolo che non era a posto, ma nessuno mi ha chiesto nulla, cioè, non è che lo Stato italiano, qualsiasi Stato, oggi mi pone una sanzione perché io avevo un veicolo che non era secondo le normative. Oggi la Volkswagen me lo mette a posto. Sì, io posso sostenere che se avessi saputo che avrei comprato quel veicolo, ne avrei comprato un altro, qual è il danno? Certo. Ci vorrebbe un avvocato. No, ma ci vorrebbe un avvocato, e questo lo sapevo che portavate acqua al vostro mulino. No, ma nel ringraziarla, al di là delle battute, è importante quanto lei ci ha detto, perché abbiamo letto class action di qua, causa. Attenzione, non è così facile, perlomeno nel nostro ordinamento, dimostrare il danno. Io devo chiudere, quindi nel ringraziare l'avvocato Fausto Bongiorni, lascio la linea al GR24, poi torniamo in diretta per parlare di OGM. L'Italia rinuncia a qualunque tipo di sperimentazione e chi vi parla pensa che sia una grandissima cavolata e anche ipocrita, visto che il 90% dei mangimi dei nostri animali sono OGM modificati. Dopo GR24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo alla decisione del governo italiano. Il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, assieme al ministro dell'ambiente Gianluca Galletti e al ministro della salute Beatrice Lorenzin, hanno inviato alla Commissione europea una lettera chiedendo di escludere tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo, non nuovi OGM. La borsa oggi presenta pochi spunti, già li ricordavamo prima della pausa per il GR24, meno 0,70% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 1,50% Francoforte, con Mediaset più 3,5%, A2A più 2,80%. Bene anche Fiat Chrysler più 2,20%, Unipol più 2%, Mediolanum più 1,70% come la Pop Milano, Tenaris più 1,30% come Unipol Sai, fronte opposto Telecom Italia meno 4,30%, ripetiamo, smentite da parte di Orange interessamenti, contatti con il gruppo Telecom Italia. E Enel perde il 2,5%, Banco Popolare il 2,20%, Tods meno 2%, ST Microelectronics meno 1,80% come Enel, Green Power e Snam, ma anche Azimuth perde l'1,80%, l'1,60% lo cedono Luxottica e l'1,5% è il calo del Monte dei Paschi di Siena su A2A. Tra l'altro il titolo si avvantaggia del fatto che sono stati prorogati i termini per la trattativa in esclusiva con Linea Group, e questo è visto come un possibile segnale di un accordo. Fiat Chrysler si muove non sul Dieselgate della Volkswagen ma sull'attesa per la quotazione della Ferrari. La domanda sembra essere molto sostenuta, c'è chi prevede 10 volte superiore all'offerta. Oggi tra l'altro sono usciti i dati sulle vendite in Spagna, Francia e Stati Uniti, tutti positivi, stiamo attendendo anche i dati sulle matricolazioni italiane, migliori e peggiori in assoluto. Allora, Rizzoli Corriere della Sera perde il 6% e qui pesa il ritardo nella trattativa per la cessione della divisione libri al gruppo Mondadori. Poi Clabo perde il 7,80% e Novatec meno 5,50%, Valsoia meno 4,80%. Olidata più 25,6, Lucisano più 7,16 e poi Giglio Group più 5,80%. Eccoli qua i dati di Fiat. Buoni, il mercato auto in Italia ha fatto più 17% a settembre, portando la crescita delle immatricolazioni come auto complessivamente date al più 15% nei primi 9 mesi dell'anno. Nessuno effetto scandalo Volkswagen, forse presto, forse non vi sarà, ma Fiat fa meglio della media del mercato perché il gruppo Fiat Chrysler ha venduto 36.880 vetture, sono più 20% rispetto a un anno prima, è il nono mese consecutivo in cui Fiat si posiziona sopra il livello della media di mercato. Allora, andiamo su un tema che vedo che già sta scaldando molto gli ascoltatori. Premetto che io non ricevo nessuna busta paga dalla Monsanto e il dire che la posizione sugli OGM italiana è molto ipocrita non vuol dire appoggiare le multinazionali che hanno il quasi monopolio degli OGM, paradossalmente vuol dire il contrario, vuol dire che se un paese rinuncia a fare ricerca non a produrre ortofrutta con l'OGM, ma almeno a fare ricerca, consegna tutta la ricerca mondiale sugli OGM ai grandi colossi, tra cui la Monsanto, americani, che sono interessati agli OGM di base, chiamiamoli così, ai mangimi, quindi soia, mais e quant'altro. Noi potremmo sviluppare una ricerca per vedere se porta qualcosa su prodotti tipici nostri, si citavano le mele, le pere del Trentino, sappiamo e tutti siamo a favore dei prodotti biologici, chi vi parla li utilizza, per cui non state parlando col talebano della Monsanto, ma faccio notare due cose perché mi piace anche un po' di coerenza. La prima, che bloccare la ricerca nella vita non è mai stato un segno di lungimiranza nella storia dell'umanità. La seconda, che bisogna capirsi anche cosa sono gli organismi geneticamente modificati, se qualcuno sa, ha mai visto la foto di cos'era la pannocchia, il mais scoperto da Colombo o da tutti gli altri esploratori in Sud America, beh, il mais era grande mezzo palmo, fate la proporzione su cos'è adesso una pannocchia, quello si chiama modifica genetica della pannocchia, innesti, incroci, quel cavolo che volete. Uno. Due, la cosa che mi fa impazzire è che mentre noi l'Europa ti dà la possibilità di scegliere se vuoi o non vuoi sperimentare, blocchiamo qualunque tipo di produzione, di sperimentazione sugli OGM autorizzati a livello europeo e anche di coltivazione, riusciamo a importare ogni anno il 90% dei mangimi che diamo alle mucche italiane per il latte e quindi per i formaggi italiani, ai maiali italiani per il prosciutto, sono tutti geneticamente modificati. Allora io vorrei capire che coerenza ha un paese che dice sì agli OGM se devo farli mangiare agli animali, no agli OGM se devo mangiare io una pera o una mela. Mi sembra tutto un po' strano. Detto questo, vorrei capire la posizione che la Coldiretti sia da sempre a favore contro gli OGM, lo sappiamo, tant'è che oggi la Coldiretti esce con un sondaggio che dice quasi 8 cittadini su 10 si oppongono al biotech nei campi, pongono seri problemi di sicurezza ambientale e un modello di sviluppo che è grande nemico del Made in Italy, così il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente della Confagricoltura Mario Guidi, buonasera. Buonasera a voi. E poi vorrei parlare con Roberto De Fez, che è autore del libro Il caso OGM, è ricercatore, primo ricercatore all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli. Buonasera anche a lei, De Fez. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Guidi, prima la notizia, lei ci disse mesi fa che se l'Italia si fosse opposta a qualunque sperimentazione e coltivazione avreste chiesto anche il blocco dei mangimi, ma volete andare su questa strada perché lì si blocca tutto? Io ne faccio una questione di coerenza, come hai anche detto bene prima. Se l'Italia risponde in maniera che qualcuno ha definito coraggiosa, io dico non coraggiosa, nel vietare l'uso della coltivazione degli OGM, penso che dovremmo essere altrettanto coerenti a votare a favore di un regolamento comunitario che consentirebbe all'Italia di vietare anche l'uso, cioè il consumo di prodotti OGM, perché altrimenti non capirei perché l'una cosa non debba essere accompagnata all'altra. Ti devo dire che in questi giorni il regolamento che consentirebbe questo blocco sta incontrando gravi difficoltà e io vorrò vedere come il governo italiano si porrà nei confronti di questo regolamento, che secondo me è un principio di coerenza, ecco. Sì, è un principio di coerenza un po' tafazzista, cioè se noi blocchiamo l'importazione del mais, della soia che diamo alle mucche e maiali italiani, blocchiamo le produzioni di valore del Made in Italy, Guidi. Ma io ne sono perfettamente consapevole, però penso anche che se diciamo che questi prodotti sono un rischio per l'ambiente, sono un rischio per il consumatore, sono un rischio n volte per tutto quello che è il Made in Italy, italianità, allora lo sono anche dal punto di vista alimentare e quindi per rispetto della coerenza io vorrei poter puntare su Made in Italy, che è fatto solo da prodotti italiani e OGM. Un dato però lo sapete anche voi che noi non reggiamo con i sementi italiani. Ma certo. Che tra l'altro si sono anche impoveriti come qualità, mi raccontavano alcuni agronomi. Adesso mi prendo per. Certo, dovremmo lavorare di più sulla ricerca. Infatti la proposta di Confagricoltura, presentata all'Expo non tantissimo tempo fa, è quella di favorire una ricerca italiana possibilmente pubblica. E non lo diciamo solo noi, lo dice una persona insospettabile, che è l'ex presidente dell'Uruguay, Mujica, che è venuto nei giorni scorsi all'Expo e ha detto che gli OGM sono un prodotto che deve essere frutto di una ricerca pubblica e quindi ha affermato la possibilità di utilizzare gli OGM per i suoi campesinos e per la sua agricoltura, diciamo così, di fatta di piccole imprese. Quindi non è che siamo Io voglio chiedere agli ascoltatori che in questo momento chi si sta arricchendo sono sicuramente i grandi colossi della farmaceutica, tutti citate sta Monsanto, va bene, perché vendono anche all'Italia mais e soia geneticamente modificata. In un paese normale, secondo me, dovrebbe essere, io sono d'accordo, sulla ricerca pubblica, cioè senza nessun interesse del privato. La critica che le fanno, Guidi, è l'OGM fa bene a chi produce perché guadagna di più, ma fa male a chi consuma. Vorrei una risposta su questo e poi capire con Roberto De Fezza a cosa stiamo rinunciando come ricerca. La ricerca si fa per capire se qualcosa va bene o non va bene. Bloccare la ricerca è oscurantismo a casa mia. Comunque, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Presidente Guidi, l'OGM conviene a voi agricoltori per fare più profitto, ma non ai consumatori, è a vantaggio solo vostro. Prego. Ammesso che sia vero, ma credo che sia a vantaggio di tutti, in realtà poter governare in maniera sostenibile la crescita del pianeta e la tecnologia, spesso confondiamo il prodotto della tecnologia con la tecnologia stessa, credo che se vogliamo assecondare, diciamo, queste paure, secondo me, infondate dei consumatori, dobbiamo allora essere coerenti e vietarne anche l'importazione, come dicevo prima. Voglio darti un dato che ho appena stampato a proposito del fatto che il prodotto Made in Italy ha tutto questo vantaggio in questo tipo di coltivazione. Il mais nazionale oggi quota alla borsa merci di Bologna 171 euro a tonnellata, quello estero quota 193 euro a tonnellata, la soia di produzione nazionale quota 323 euro a tonnellata, quella estera, che probabilmente è in gran parte OGM, quota 337 euro a tonnellata, quindi di più. Allora di cosa stiamo parlando? Cioè lei sta dicendo, guardate che il mais e la soia italiane costano meno, quindi non è un vantaggio. E allora quale sarebbe, mi scusi, il vantaggio nel provvedere alla sperimentazione sugli OGM, Guidi? Poter avere dei prodotti tecnologicamente avanzati che resistono a certi tipi di malattie come le micotossine, che danno un prodotto con una riduzione di fitofarmaci e quindi di chimica nelle campagne, l'ISA stima meno 37%, e con un beneficio sull'ambiente, sul consumatore e anche, perché no, non credo ci sia niente di male, sul reddito degli agricoltori, che mi pare decisamente in flessione nel corso degli ultimi anni e in particolare quest'anno. Allora, De Fez, a me preoccupa più un'altra cosa, io non sono un esperto di agricoltura, ci mancherebbe, però quando sento proibire la ricerca un po' mi preoccupo, sempre, comunque, a prescindere. No, chiaramente ci sono dei limiti etici, che discorsi, però qui non è un problema etico, visto che eticamente compriamo tutte queste tonnellate all'anno di mangimi, ripeto, il 90% arrivano da Argentina, se non ricordo male, e Spagna, mi corregga però Guidi se sbaglio, la maggior parte di questi mangimi OGM modificati. Ma qui continuiamo a contrapporre, vedo gli ascoltatori, l'OGM al biologico. Allora, ripeto, secondo me possono convivere tutti e due, e personalmente io compro il biologico quando posso, anzi. Ma che cosa stiamo rinunciando in termini di ricerca? Perché ci concentriamo sempre sulle sementi, sui brevetti della Monsanto, che continuerà a avere il monopolio finché nessun altro si metterà con soldi pubblici a sperimentare, a fare ricerca. A che cosa rinunciamo, De Fez? Rinunciamo al futuro, all'innovazione, alla possibilità di essere competitivi su questi mercati. In realtà la vera notizia di oggi non è che stiamo vietando qualche cosa. In Italia forse c'era un ettaro ufficialmente a mais geneticamente modificato. Quello che stiamo ufficialmente autorizzando è di diminuire la quota di mais coltivato in Italia, di peggiorarle la qualità. Il presidente Guidi gliel'ha detto con i numeri, il mais italiano è molto inferiore di qualità rispetto al mais estero che contiene mais geneticamente modificato, e quindi noi stiamo perdendo sull'innovazione, stiamo danneggiando le industrie italiane e stiamo avvantaggiando Monsanto. Quindi più andiamo nella direzione indicata dal governo, più Monsanto festeggia. E io trovo paradossale questa vicenda. Nella sua descrizione ci mancava un pezzo della filiera. Lei diceva Monsanto è contento, vende in Italia i suoi mangimi, il derivato dei suoi prodotti OGM. Certo. Ma Monsanto non ha dei negozi in Italia. Come fa a vendere soia e mais geneticamente modificato? Servono dei consorzi agrari che facciano questa mediazione. Allora, quando lei giustamente riporta la dichiarazione del presidente di Coldiretti, faccio io questo lavoro così non lo deve fare il presidente Guidi, dimentica Coldiretti che nei suoi consorzi agrari si vendono i mangimi OGM. Lo so. Questo è il punto della questione. Allora, quando siamo confrontati a una condizione nella quale uno degli attori principali da un lato dice danneggia l'agricoltura italiana, dall'altro i suoi presidenti, sto parlando del presidente Coldiretti Pavia e del presidente Coldiretti Friuli, ammettono che nei loro consorzi agrari si vendono mangimi OGM e che loro li usano nelle loro aziende zootecniche, evidentemente qui stiamo facendo un gioco del silenzio, una pantomima nella quale in realtà tutti sanno quello che sta succedendo veramente. Quest'anno importeremo probabilmente 1 miliardo di euro di mais, talmente scadente la nostra produzione come quantità prima ancora che come qualità, e quindi noi continuiamo a dipendere dall'estero per tutte queste approvvigionamenti. Ma perché il nostro mais è di così cattiva qualità? Perché non possiamo utilizzare l'innovazione. Noi stiamo usando mais praticamente del 1997, è come se io oggi cercassi di venderle un'automobile senza servosterzo, senza airbag e senza controllo delle telecamere e senza centralina per modificare le emissioni, certo. Esattamente, ma nel 97 più o meno questa era la condizione. Ecco, noi usiamo quel mais lì perché vietiamo qualunque innovazione. Mi dica una cosa, Mi scusi che le dico, due anni fa anche Cuba, prima delle vicende attuali di sgelo, aveva il suo mais geneticamente modificato, costruito, pensato e prodotto dagli scienziati pubblici di Cuba. Qui non c'è nessuna contraddizione, come lei diceva, tra biologico e OGM, anzi il miglior biologico si fa con piante geneticamente modificate. Adesso perché non quello oso è il modo migliore di evitare di usare insetticidi sulle piante che si vogliono. Ma è vero, adesso non riesco, sto finendo il tempo, ma è vero, De Fez, che noi ci concentriamo sulle sementi, sul mais, sui mangimi, ma qui c'è un problema grossissimo nella nostra ortofrutta, come sanno i trentini, per esempio, grandi esportatori, produttori di mele. Esattamente, noi siamo i primi utilizzatori di fungicidi sulla vite e sul melo e abbiamo tutto di scienziati pubblici, tutto pronto da 10 anni almeno, delle mele che muoiono, non vivono, muoiono nell'Università di Bologna, che potrebbero abbattere del 60% l'utilizzo dei fungicidi sul melo. Noi qui dobbiamo decidere perdendo. Se è meglio noi una mela che ha 60% in meno di chimica, appunto fungicidi, quando, oppure se è meglio una mela che non è geneticamente modificata ma è piena di pesticidi o fungicidi, come li chiama lei. Io banalmente quello che ho imparato è che tutti i prodotti che, di cui ci cibiamo hanno avuto delle modifiche genetiche, gli innesti, pensate alla vite americana usata per salvare l'uva dalla filossera, se non ricordo male, Guidi, adesso non voglio dire cavolate, ma insomma ma poi oggi non stiamo neanche più parlando di OGM, come detesta Sabine. Oggi abbiamo nuove tecniche che sono la cisgenetica, il genome editing, ovvero senza importazione di geni da altre specie o dalla stessa specie, una rimodificazione. Allora non confondiamo il prodotto della tecnica con la tecnica, non demonizziamo il prodotto con una tecnica che è un'evoluzione di quello che si faceva una volta, ovvero l'irradiazione di raggi gamma che modificava in maniera incontrollata il gene delle piante, e da cui abbiamo selezionato il grano e tutte le nostre varietà. Si tratta solo di una tecnica che ci consente oggi di intervenire in maniera mirata per modificare le nostre coltivazioni. Allora, per difenderle. Io dico solo una cosa, intanto trovo sbagliatissimo, lo dico per la quarta volta, ma non ne frega nulla, bloccare la sperimentazione, perché poi uno la sperimentazione la deve fare, fa parte dello sviluppo, del progresso, se ancora questa parola ha un senso. Poi mi sembra, diffido da chi per partito preso dice che tutto è male da una parte, tutto è bene dall'altra, vale anche per gli OGM, ci mancherebbe. Faccio notare che le modifiche genetiche si fanno da sempre, ma vorrei avere dei dati scientifici, non dire no, basta, non si sperimenta nulla, restiamo solo a comprare il mangime. Mi sembra un assurdo e non smetterò mai di dirlo, anche se vedo che molti dicono che adesso andrò a cena grazie alla Monsanto e mangerò carne e berrò latte di mucche italiane e di anche maiali quando mangerò prosciutto, che hanno mangiato mais e mangime geneticamente modificato, come farete anche voi che state scrivendo una marea di insulti, ma forse non lo sapevate. Detto ciò, grazie al presidente di Confagricoltura Mario Guidi, grazie anche, poi vi riavremo ospiti perché il tema secondo me è un tema diciamo prospettico e di scenario, anche a Roberto De Fez, primo ricercatore dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi, intanto l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.